Volare lontano da qui, in un cielo infinito di stelle, per scappare da quello che vorresti insieme a lei e dividere. Anima e corpo, anima e corpo, se il vero amore non finirà mai, ti terrà compagnia sin solitudine. Non puoi andare via da te, perché insieme a lei dividerai anima e corpo, anima e corpo. Una canzone per te, per non dimenticare mai. Una canzone per te, per farti un po' sorridere. Una canzone per te, per non dimenticare mai. Una canzone per te, per farti un po' sorridere. Sorridere. Da te, fra il mare e le terre lontane da noi, uno sbarco su una terraferma per stare insieme a lei e dividere anima e corpo. Per te, per farti un po' sorridere. Una canzone per te, per non dimenticare mai. Una canzone per te, per farti un po' sorridere. Sorry.